America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. An extraordinary move in the last couple of hours in the Republican campaign. Ted Cruz and John Kasich say they are working together against the party frontrunner Donald Trump. Beh, elezioni. Oggi abbiamo elezioni importanti in Pennsylvania, Connecticut, Maryland, Delaware, Rhode Island, una specie di piccolo Super Tuesday. Ma, come dire, lo sviluppo, perché poi qui non dobbiamo mai sorprenderci di nulla in queste elezioni del 2016, lo sviluppo, vi dicevo, è che i due candidati, Ted Cruz e Kasich, governatore dell'Ohio, hanno deciso di coalizzarsi contro Trump. Beh, questa, diciamo, la notizia già circolava, più o meno lo si era detto già un pochino ieri, che forse questo poteva succedere, però a questo punto è formale. Quello che mancava era la risposta di Donald Trump, che, come potete immaginare, è stata, come al solito, dirompente. Non ha parlato direttamente Trump, ha fatto i suoi commenti via Twitter e sono, insomma, dei commenti ovviamente molto provocatori, perché nel primo lancio che ha fatto dice, perché poi Ted Cruz lo chiama Lying Ted, cioè il bugiardo Ted, cioè ogni volta che si riferisce a Ted Cruz ci mette davanti il bugiardo Ted, e quindi dice: il bugiardo Ted e Kasich sono matematicamente morti e dunque sono disperati e non vedo dove andranno a finire. E il Twitter successivo, di nuovo, Lying Ted, cioè quindi il bugiardo Cruz, è talmente disperato e debole che si è messo con un altro ancora più debole di lui, ancora più disperato di lui, che oltretutto non lo sopporta. Non vedo dove potranno andare quando, dice Kasich, ha vinto solo uno stato su 38. Ecco, gli altri hanno cercato di balbettare qualche risposta, però in effetti Trump, devo dire, riesce sempre a cogliere il senso delle cose. Qual è il suo problema? Che i due si sono messi d'accordo non per vincere, ma per evitare che vinca Trump. Cioè, Kasich si è ritirato dall'Indiana lasciando campo libero a Cruz, e Cruz in Indiana andava abbastanza bene, era, diciamo, a 3-4 punti da Donald Trump. Se in quello stato Cruz, con l'uscita di Kasich, dovesse vincere, ecco che prende uno stato importante, perché di nuovo l'Indiana è uno di quegli stati piglia tutto, cioè chi vince piglia tutto. Cruz invece si ritirerà in un paio d'altri stati in elezioni successive. Comunque sia, Trump sta andando piuttosto bene. Vi ripeto, le elezioni di oggi sono molto importanti, perché ci sono alcuni stati in cui Trump è in vantaggio, che sono i nuovi stati piglia tutto. Trump ha oltre 800 delegati. Se riuscisse a vincerne, diciamo, un centinaio dei 146 in palio, ecco che andrebbe già a 900. A quel punto la battaglia per gli altri sarebbe davvero difficile. In campo democratico, beh, Hillary dovrebbe veleggiare, non ha problemi nei confronti di Sanders in questi stati. Vi daremo il resoconto dei risultati di oggi, dopo la nottata di questa notte, appunto, nella puntata di domani. Intanto vorrei fare un passo indietro, perché c'è stato un intervento molto importante di Barack Obama. Vi ricordate, avevo dedicato la copertina della settimana all'Europa. Barack Obama ha fatto un discorso, ha pronunciato un discorso sull'Europa, secondo me molto importante, un discorso, come dire, che un altro leader europeo non sarebbe stato in grado di pronunciare, perché Barack Obama si è rivolto a tutti gli europei, ha parlato in modo diretto a tutti gli stati europei, a tutte 28 le nazioni che compongono l'Unione Europea, ai 19 che formano l'euro, e lo ha fatto, questa cosa mi ha colpito molto, devo dire, lo ha fatto con una sicurezza, con un piglio, anche con una tiratina di orecchie che nessun altro leader europeo sarebbe stato in grado di fare parlando al di fuori dei suoi confini. È stato un vero e proprio discorso all'Europa, sentiamolo. The United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic and united Europe. Ecco, avete sentito qui Barack Obama che dice che gli Stati Uniti e il mondo hanno bisogno di un'Europa unita. Per gli Stati Uniti, per il mondo intero, abbiamo bisogno di un'Europa prospera, forte, democratica. I nostri rapporti economici sono ormai legati in modo indissolubile. Le vostre città sono le nostre città. Gli americani vivono, sentono Parigi, Londra, Praga, Roma, Bruxelles, Varsavia e le decine di altri capitali europei come le loro città, soprattutto quando sono sotto attacco. Ecco, il messaggio di Obama è stato forte, la retorica ispirata, persino commovente a tratti. Come vi dicevo, il presidente americano ha parlato come un leader europeo, dietro la storia, i valori comuni. Il messaggio di fondo che arriva dall'America per privilegiare l'integrazione contro la disintegrazione va però diritto al cuore dei nostri problemi, e cioè... l'economia deve tornare a crescere in modo simmetrico. Dobbiamo prendere misure per farlo e ognuno, soprattutto la Germania, dovrà fare la sua parte. Barack Obama ha inaugurato ieri mattina con la Merkel la nuova MES e poi nel pomeriggio ha tenuto un vertice importante con gli altri leader europei chiave, cioè con François Hollande, con David Cameron, con Matteo Renzi. I temi erano i più diversi, naturalmente si è parlato di terrorismo, si è parlato di rifugiati, si è parlato di pericolo per un'Europa in fase di disintegrazione, appunto per il resto del mondo. Barack Obama si è impegnato a mandare 250 soldati americani in Siria e abbiamo avuto un'altra notizia, questa volta inquietante, ieri dagli Stati Uniti, da James Clapper, che è il direttore dell'antiterrorismo americano. Ha detto che ci sono delle cellule di estremisti islamici dormienti sia in Italia che in Germania che in Gran Bretagna. Ecco, questo in qualche modo potevamo immaginarlo, ma il fatto che lo dica un funzionario di questo livello ovviamente può essere preoccupante. Sentiamo di nuovo Obama in chiusura. The progress that I described was made possible in large measure by ideals that originated on this continent in a great enlightenment and the founding of new republics. Obama qui dice: dovremmo investire di più in infrastrutture, in ricerca. Non abbiamo solo bisogno di un'Europa forte e unita, ma anche di un'Europa benestante. Cosa vuol dire Barack Obama? E qui devo dire ha lanciato un paio di attacchi anche nuovi. Intanto che se ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo è anche perché l'economia purtroppo non ha dato le performance che avrebbe dovuto, e dunque c'è malcontento, c'è disperazione, ci sono giovani, ha detto Obama, che non riescono a guardare con speranza al futuro. Ma l'elemento chiave per restituire grinta all'Europa è quello degli investimenti infrastrutturali, delle riforme che consentano e favoriscano investimenti e flessibilità. E questo è fondamentale, perché se il mondo e l'America non possono fare a meno dell'Europa, di certo nel nostro intimo, anche fra coloro credo che chiedono la disintegrazione europea, nel nostro intimo, dicevo, sappiamo soprattutto che l'Europa non può fare a meno di se stessa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. C'è stata molta stampa, c'è stato un articolo straordinario sul New York Times di ieri sul nuovo album di Beyoncé, Lemonade. Il critico del New York Times ha addirittura osannato la performance artistica, la profondità del pensiero, dei testi, perché scrive il New York Times, non avremmo immaginato che Beyoncé si sarebbe spinta talmente in avanti. Avanti verso che cosa? Verso l'attacco di suo marito Jay-Z, che ormai sanno tutti aveva avuto un affair con un'altra donna, e dunque lei denuncia nel suo disco questa relazione del marito con un'altra donna, e lo denuncia in modo molto molto aperto. Di Beyoncé, il primo single dell'album Lemonade, Formation. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!